come che non vai a genio, a tutti sai che ci provi ma non ci riesci mai. Che fai? Chi sei? Quando sei uno come me, che ogni volta che fai un sacrificio poi ti spremono come un dentifricio. Che fai? Chi sei? Non voglio essere un fenomeno, non voglio essere come te. Famosi è già fuori moda per me, e non ho più niente da dire, e non c'è niente da capire perché. Quando l'ostacolo è solo un nuovo gioco politico, tutta la gente va in panico, e io mi agito e non mi va di essere normale. Agisce come un...